ad alta voce. Monica De Muro legge L'iguana di Anna Maria Ortese. Il cappello di piume scarlatte. Un lento rossore. Al pollaio. Rimasto solo, infatti, non pensò a spogliarsi, ma si sedé sul letto guardando nel buio. Il marchese si era ripresa la candela, la finestra spalancata. Da quando era bambino a Bellagio, in casa di sua nonna, che non godeva fama di eccessiva liberalità in quanto a spese di casa, non era stato al buio di notte in una stanza così. Non provava nessuna amarezza legata in particolare alla miseria della casa, bensì una malinconia inusitata, e la cui causa più diretta era, volle credere, nella forte luce della luna. Sembrava che l'universo intero stesse viaggiando. Il cielo, cosparso di un mare di riccioli chiari, quasi truccioli di carta, si andava colmando là sotto di una luce pacata e calda, come un rossore di gioia che doveva ritenersi segno del lento incedere, dietro qualche sommità dell'isola, dell'astro. Ma al conte faceva l'effetto di quel tumulto, quella vivacità, quell'animazione che caratterizzano una casa dove si stia dando un ricevimento. Oppure qualcuno arrivi di molto caro e riparta, non si sa. Era luce dappertutto, per quanto non manifesta, e vivacità e grida, sebbene in un tenero silenzio. In un punto poi, e proprio in un incavo di quella collina che, trovandosi dietro la casa e prolungandosi però al suo fianco, era visibile dalla finestra del conte, si vedeva una luce ancora più viva, un rosso quasi d'incendio, che confermò il conte nella sua ipotesi essere prossima all'aurora della luna, e gli fece rilevare lo scherno contenuto nelle parole di Ippolito a proposito della lunghezza della notte in Ocagna. Porché a lua sta calando, ma non se ne dolse. E perché poi il marchese pensava di beneficare, se mai fosse divenuto ricco, il circo Cole di Londra, quando c'era in casa una creatura che non riscoteva per i suoi servigi alcun diritto e anzi veniva pagata in pura pietra? Tornò nuovamente con un lento rossore che il conte avvertì non per altro che un bruciore all'orecchio, il sospetto di stare sbagliando. Provando, come sempre davanti a qualche difficoltà o dolore, l'impressione che la causa prima fosse in qualche durezza della propria mente, che non afferrava la realtà delle cose, sentì accentuarsi quella mite vergogna, quel vago scontento di sé, come di un cuore inutile che non poche volte, passando per le strade del mondo, lo aveva umiliato, e risolse perciò di essere più semplice e attivo di quanto non fosse stato finora, respingendo quel vano argomentare e solo prestandosi ad opere di soccorso. L'iguanuccia parlare, offrire per il riscatto di tutti, buona somma, liberare tutti, questo per prima cosa. Andava dicendosi pianamente, con un dito sulla fronte, l'antico lombardo. E senza avvedersene alzatosi, andava su e giù per la stanza. Eravi davanti alla finestra, una breve terrazza piuttosto illogica, in quanto per entrarvi bisognava scavalcare il davanzale, cosa che il conte fece istintivamente, attratto da un alto e rozzo parapetto che lo metteva, per così dire, al riparo dei raggi dell'astro e della loro inviolata bellezza, consentendogli di stare nascosto, come l'animo suo desiderava, partecipando nello stesso tempo ai disarmati incantesimi della notte. Una volta coricatosi sotto il muro, vide che non poteva pensare altro, avendo preso l'animo suo una piega tutta diversa da quella che fino a poc'anzi lo aveva animato, della indagine e contabilità. Gli pareva anzi d'essere tornato fanciullo, qualche notte d'estate, nella nativa Brianza, d'essere quasi in plume, e che una voce assai nota di qualcuno curvo al suo orecchio e che egli non vedeva gli andasse ripetendo affettuosamente: «Racconta, su, Daddo, dove sei stato tutti questi anni? Su, racconta!» E insisteva misteriosamente: «Qualcosa di bello certo avrai fatto, te ne prego!» Ed egli, senza girarsi, come la risposta gli sembrasse povera: «Case, o signor, case!» E a questo punto gli sembrava sentir ridere mitemente, e poi passi scalzi che si allontanavano. «Sì, io non feci che costruire», pensò. E benché in ciò non vi fosse nulla di male, tutt'altro, gli pareva in complesso una futilità, e che vi fosse un che di vuoto, un perdimento, come a colui che ha avuto una moneta importante l'adopera solo per acquistare sciocchezze. E d'altra parte tutti facevano così. Che vi era di male? E avrebbe voluto chiedere a quella voce cos'altro avrebbe potuto fare, ma per una domanda così facile non trovava alcuna intelligenza. Era così privo di ogni capacità di reagire, come premuto fino a divenire un'ombra dal segreto, che ora appariva dolente e tuttavia non meno spiritoso, di questo mondo, che non fece sulle prime gran caso a una luce che si accese dietro il balcone attiguo al suo. Ma dopo qualche attimo quei vetri si apersero e Don Ilario, con un piccolo specchio tra le mani, era là fuori. Lo specchio, rettangolare, era incorniciato d'oro vecchio o bronzo o qualcosa che luccicava, dove erano scolpite delle foglie, certo una memoria della signora Hamilton, e girato verso Aleardo permetteva a questi di scorgere, come in un fatato ritratto, il volto del marchese, che nella realtà era celato. Ed era, convenne il conte, un volto di una grazia e luminosità meravigliose. Le rughe e gli affanni che le avevano causate, completamente cancellate, sparite. Liscio come un cameo, ma acceso di rosa sulle guance sfilate, quel volto raccontava soltanto la gioventù, la forza, la gloria dei 18 anni. Svaniti anche i cenciosi abiti, il marchese portava sulla testa un cappello di velluto azzurro, ornato di una vera cascata di piume scarlatte che gli venivano fin sul collo, mentre sulle spalle una corta cappa di raso nero non nascondeva un radioso giubbone mille colori, disegnando le spalle erette e eleganti nel gran vigore. Il resto dell'abito era nero e una bassa cintura d'argento come una catena lo serrava, mostrando sull'anca l'impugnatura d'una raffinata arma, anche d'argento. Come zaffiri appena incastonati nell'alabastro del volto, i suoi occhi brillavano, fin quasi alle lacrime, di fierezza, di gioia. Più nessuna traccia della sua tremenda vecchiezza. Felice di riconoscersi così mutato, egli, con la bella mano, dava gli ultimi tocchi al cappello, piegando in qua e in là la testa, simile a un paradisiaco uccello. Il conte, partecipando con tutta la sua oppressa anima a quell'apparizione e non potendo più a un certo momento costringersi a ignorare la festa dell'amico, gli fece giungere la sua voce. «Più inclinato a destra, mio caro», alludeva al cappello, «per lasciare libera la fronte». Don Ilario non rispose subito, come accade nei sogni che talora, anzi, passano 2 o 3 anni. Anzi, nello specchio parve che quella gran felicità rabbrividisse, ma poi obbedì. «Esci?» chiese ancora il conte. «Sì, ho pensato che 2 passi non possono farmi male», rispose, «tanto più con quest'aria così dolce». Ma non dava giustificazione alcuna della sua sontuosa trasformazione, né dell'abbigliamento raffinato, della gioventù del proprio volto. Solo, dopo un momento, soggiunse: Secondo te vi è qualcosa che possa, dico in modo particolare, recare offesa all'amore? Nulla, rispose il conte. Anzi, una piuma che nella realtà dell'amato risulta essere posta di sghembo, agli occhi dell'amore indica che tutto ciò che non è posto di sghembo è malfatto. Rise appena e anche Don Ilario rise. Come tutti i nostri giorni, cioè la vita, il cupo mare che ci circonda cambia perfino di sostanza. Egli disse: Sì, da trasformarsi, è il caso di dirlo, in trepida aria, e ciò solo perché il pensiero ha intravisto la parte mancante di sé, bellezza o mostro, non importa. Sì. Vi è del vero in quanto asserivi tu poco prima, Daddo, sulla insistenza di un vero tratto di demarcazione tra reale e irreale. Ogni cosa, anche appena pensata, subito è reale. Ciò che ci abbisogna, ecco ciò che è reale. E perciò possiamo anche morire o permettere ad altri di morire, la morte nostra o altrui, più non importa. È così, infatti, ammise il conte. E dicendo questo, gli parve che il colore della notte mutasse. Per alcuni momenti non badò più al marchese, sollecitato da un più forte chiarore che vedeva nell'aria, ingolfarsi fin dentro le più piccole nubi, come se milioni di uccelli rossi lo stessero solcando, chiarore che era palesemente il rosso. Tutto il cielo di Ocagna stava diventando rosso, senza per questo perdere certe bianche e opaline trasparenze, come per una seconda levata della luna. Due erano i casi, pensò debolmente il conte, o la prima luna era stata un'apparenza, corrispondendo a un suo stato di smarrimento, mentre questa annunciava un ritorno della fiducia, della partecipazione al mondo, oppure Ocagna aveva due lune, cosa veramente assurda. No. Egli si sentiva meglio, tutti si sentivano meglio, ecco tutto. E il suo pensiero tornò alla cupa istrellita. Perché le galline non gridavano più? Sentì dei passi dietro il balcone di Ilario. Poi gli Avaredo, anch'essi sontuosamente vestiti, si mostrarono di scorcio nel vano. Fai tardi, Ilario. Diceva la voce di Ippolito molto sommessamente. Dorme quel tipo? Aggiunse. L'indiscrezione personificata, disse Felipe. Ebbene, non posso dargli torto, ammise il conte dopo un altro attimo di svanimento. Sono venuto in questa terra non chiamato, ed ecco che tutto mi si presenta con una chiarezza abbagliante, anche se il significato rimane oscuro. Probabilmente è di capire queste visioni che mi accusano. Ma domani stesso io ripartirò e dimenticherò tutto. Si dolse, tuttavia, che il ragazzo non lo salutasse, come se quelle poche battute egli le avesse soltanto sognate. Poco dopo, il gruppo lasciò il balcone e la luce della candela dalla stanza si allontanò. Il conte, alzatosi in piedi, si sporse al parapetto e guardò le nere querce profilate di bianco, la bianca arena, il mare scuro. Poi, su quella spiaggia, si delinearono molto eleganti e calme le figure di prima. Il bel gruppo raggiungeva l'estremità della spiaggia e si allontanava dove, al riparo dalla luna, la collina che affiancava la casa volgeva al freddo nord la sua fronte calva, tranquilla. 10 minuti più tardi, e cioè il tempo necessario a sdraiarsi nuovamente nell'illusione di riposare e poi a tirarsi su di nuovo, avvedendosi che era impossibile, il conte era convinto d'aver sognato. Egli aveva visto infatti un giovane che era l'immagine stessa della felicità e della gloria, cose che Ilario, e forse per questo gli era stato più caro, non sembrava conoscere neppure nel loro nome. Dove era stata quella scoria di disperazione, quella schiuma del nulla o di secoli di segreta decomposizione, era sorto un giovane elegante, rapito in una nube di pace e di fantasticheria, quali solo la beata innocenza, oppure estese proprietà terriere, e insomma la grazia della natura congiunta al potere economico, concedono. Per quanto ciò gli dispiacesse, e lo turbavano anche la docilità e impassibilità con cui aveva partecipato a quel crudele discorso, era sicuro di aver sognato. Chiuse gli occhi, sospirando, e ancora li riaprì. E gli parve, riaprendoli, che la luce del cielo fosse meno rossa, come la forza dell'emozione universale andasse lentamente esaurendosi e il tutto tornasse a una certa normalità. Allora l'immagine del piccolo corteo in gran pompa, diretto fino al limite della collina, dove la spiaggia faceva gomito, gli si ripresentò con l'esattezza di un negativo, con una così tetra verità che si trovò a bisbigliare: «Dove vanno andati?» Con una specie di desolazione. Vi era nella cura con cui Ilario si era vestito, nella insensata tranquillità con cui aveva ignorato la sua sorpresa, nella sontuosa arroganza dei fratelli, nel modo come si erano poi avviati, sicuri, dove la spiaggia moriva, un che di inquietante, di triste, come una rappresentazione alla quale essi per primi non potevano credere e che si avvaleva comunque della sua complicità. E gli si presentò più viva l'idea di una malattia del giovane che gli Avaredo, nell'immensa solitudine in cui erano, accettassero e favorissero con una specie di rassegnazione. E che altro si poteva fare in quell'arida circoscrizione? Era il conte ormai, sveglio e triste come non mai in vita sua. Da tutte le parti, per quanto gli poteva apparire al di là di quel muro, l'isola di Ocagna era avvolta in una nebbia che dava sul rame, effetto della luce lunare congiunta alla bassa pressione atmosferica. Era l'afa, e l'indomani sarebbe probabilmente piovuto. Nel cielo non si vedevano stelle, ma solo quella indefinita e torbida luminosità purpurea che si sarebbe potuta paragonare, semmai nell'isola vi fossero state donne, il che era assurdo pensare, all'ampio dispiegarsi di una veste da ballo color peonia. Entro quel chiarore il conte vedeva un pezzo dell'arida isola, l'arco della spiaggia su cui il mare si muoveva appena come assopito, e solo mandando qualche statico suono cui corrispondeva a momenti un fioco e subito disparito biancore di schiuma. Si vedevano anche degli arbusti scintillare e no al chiarore delle nubi, e la Luisa, ma del tutto spenta, perché certo a quell'ora il salvato dormiva. Improvvisamente, obbedendo a un'inquietudine che trovava le sue più valide ragioni, qualche altra era meno chiara, nell'atteggiamento malato di quegli uomini, che ora gli tornava chiaro alla mente, e nella mai sopita pietà per l'iguana, che a quell'ora probabilmente era sola con i suoi spaventi e le sue penose preoccupazioni, il conte, senza curarsi più di essere visto o sentito dagli ospiti, che potevano rientrare in qualsiasi momento, salì sul parapetto. E lasciandosi poi scivolare lungo la breve altezza del muro, era all'aperto. Appena fuori, riconobbe che una luce così calda era rara a Milano, anche nelle notti di luglio o perlomeno giustificata dalla bassa posizione della città rispetto all'orizzonte, cosa che di Ocagna non si poteva dire. Ed era questa luce, certo, che creava tali magie e aveva spinto lui stesso ad asserire che per amore si poteva anche uccidere, quando mai, in realtà, egli aveva pensato che si potesse per amore addivenire ad altro risultato che la resurrezione dei morti. Ma viveva, da quando aveva scambiato quelle poche battute sul balcone, in uno stato così ipnotico da non poter dare più ascolto a sensazioni sospetti che in altri momenti lo avrebbero colpito e indotto a ricercarne le cause. Del resto, al mattino o dopo una buona dormita, tutto ciò si sarebbe probabilmente ridimensionato. Il compito suo ora, e questo pensiero fu per fortuna assai chiaro, era cercare quel pollaio dove l'iguana era chiusa e chiedere alla creatura, badando che non si spaventasse, qualche notizia intorno alla malattia del marchese o ai sintomi coi quali si era manifestata e se l'infelice, come a momenti sospettava, non era caduto vittima, a causa della sua infermità, di qualche indegna macchinazione dei fratelli. Inoltre, voleva domandare a Estrellita se, oltre ai mestieri di casa, sapeva fare qualcosa d'altro, se aveva studiato. Ipotesi assurda. Ma faceva parte del suo interessamento per una vita così disgraziata e della coscienza un po' dolorosa che nella capitale lombarda gli esseri rudimentali non usufruivano più delle medesime simpatie e agevolazioni dei rampolli altolocati, mentre il conte desiderava per la sua protetta la situazione migliore. Comunque fosse, l'indomani stesso avrebbe chiesto la cessione e non dubitava che davanti a una cifra assai alta i Guzman piegassero. Così pensava, avviandosi verso la collina in quell'area bruciata. E per quanto bontà e fiducia non lo abbandonassero, non era lieto. È che, pur dicendosi che la soluzione del problema era facile, aveva la sensazione nel contempo che la libertà della iguana era difficile, era impossibile. E questa sensazione che si sforzava di respingere lo faceva muovere in cerca della bestia come in altri tempi si era accostato piamente alla pietra erbosa dove dormiva qualche avo o servo o amico di letto che nessuna pietà poteva svegliare. Bene, ritorneremo domani nelle acque dell'isola di Ocagna, nella misteriosa isola di Ocagna, dove il nobile milanese Aleardo incontra questa stranissima bestiola, verdissima e alta quanto un bambino, dall'apparente aspetto di una lucertola gigante, e l'iguana del romanzo di Anna Maria Ortese che stiamo leggendo in questi giorni ad alta voce. Lo sta facendo per noi Monica De Muru. La lettura è iniziata mercoledì scorso, si concluderà il 27 luglio, la potete riascoltare attraverso il nostro sito Rai Play Radio. Ricordo che ad alta voce viene curato da Anna Antonelli con Fabiana Carobolante, Lorenzo Paolini, la regia è di Riccardo Amorese.